in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei giornali. Oggi un po' più breve, cercherò di segnalarvi i titoli principali dei quotidiani e poi qualche approfondimento dai supplementi che ci sono la domenica e che sono ricchissimi oggi. Cominciamo però dal Sole 24 Ore, che ha un po' i titoli più concreti. In questi giorni, forse, in cui abbiamo sentito commenti di tutti i generi sulle questioni della RAI e del Senato, in attesa che agli annunci seguano delle azioni concrete, fa piacere insomma vedere appunto tutta una serie di reality check su questioni, come dico, molto reali. Allora, per esempio, per quanto riguarda la finanza, abbiamo parlato questa settimana una di tutte le semestrali che sono uscite, gli ottimi risultati soprattutto delle banche, e il Sole 24 Ore con articoli a pagina 2 e 3 cerca un po' di raggruppare tutti questi risultati, e quindi il titolo: per le 40 big di Piazza Affari gli utili salgono a 12 miliardi. Il boom di profitti ha riguardato soprattutto le banche, anche le aziende che esportano grazie all'indebolimento dell'euro, e hanno invece rallentato i titoli dei gruppi energetici. Questo naturalmente è legato soprattutto a quello che abbiamo visto ieri proprio sul Sole, il crollo del prezzo del petrolio. C'è anche un aggiornamento che poi trovate a pagina 5 di Roberta Miraglia sulla Grecia, perché sappiamo che dopo l'accordo raggiunto a luglio tra il governo greco di Tsipras e BCE e Commissione Europea, sostanzialmente mancava anche un accordo, un ulteriore passo dell'accordo con il grande creditore, che è il Fondo Monetario Internazionale. Si andrebbe verso un accordo anche sul debito. Atene verso un accordo tra i creditori e le riforme che il governo Tsipras in particolare sta cercando di far passare nel suo Parlamento. Queste riforme, in cambio di queste riforme arriveranno nuovi aiuti. Sul Sole 24 Ore di ieri ricorderete anche questa proposta lanciata su un nuovo strumento finanziario, che potrebbero essere dei buoni del tesoro ma legati al PIL. Una proposta che già ieri il Sole 24 Ore aveva sottoposto a un premio Nobel per l'economia, Robert Shiller, che aveva già detto: una buona idea, fatevene promotori. Oggi c'è un ulteriore approfondimento, un'ulteriore reazione. Oggi su questi BTPIL, così li abbiamo battezzati, scrive ancora Isabella Bufacchi. Oggi il parere raccolto è quello di Paolo Mauro del Peterson Institute, e la sua opinione è che è una buona idea che potrebbe essere utile a tutta l'Eurozona. In questo titolo però dovrebbe essere emesso in simultanea dai Paesi membri, quindi ancora una volta appunto cercare di varare strumenti finanziari che riguardino tutta l'Unione. Come funzionerebbe questo BTPIL? In 6 domande che trovate a pagina 15 del Sole 24 Ore. Dalla prima pagina vi segnalo anche, come ogni domenica, l'intervento dell'arcivescovo di Chieti Vasto, Bruno Forte, un decalogo per un'economia solidale e sostenibile, che prende spunto da quella lettera di Santa Cruz che è stata appunto letta in Bolivia il 7 in occasione dell'incontro che c'è stato il 7, 8, 9 luglio. Ricorderete, partecipò anche Papa Francesco durante la sua visita in Sud America, e si discusse appunto di queste due facce dello sviluppo economico, che per essere sostenibile deve essere naturalmente anche solidale, ma poi sostenibile vuol dire sostenibile socialmente e anche dal punto di vista economico. Per quanto riguarda la lettera al risparmiatore, ogni domenica il nostro collega di finanza Vittorio Carlini si concentra su un titolo quotato, cercando di dare consigli a chi l'avesse già in portafoglio, chi magari ci stesse pensando. Oggi è un big delle assicurazioni generali. La sfida è sui flussi di cassa per aumentare il dividendo. E poi vi ricordo, perché oggi non è in edicola ma ci sarà da domani, la seconda settimana della Guida del Sole. La prima settimana l'abbiamo visto, è stata tutta dedicata a casa e condominio, la seconda settimana invece lavoro e pensioni. La prima puntata in edicola domani. Per quanto riguarda il lavoro, un approfondimento sulle assunzioni, con naturalmente ancora una spiegazione di come funziona il Jobs Act, la grande riforma del lavoro. E per quanto riguarda le pensioni, invece, i nuovi assegni, come si ottiene la pensione di vecchiaia. La prima pagina del Corriere della Sera, si torna a parlare di Rai, voto e Rai, e si torna anche a parlare di Grillo, perché ieri ha esternato sul suo blog, avete sentito anche nel GR, causando molte reazioni. La fotonotizia è dedicata alla vittoria della Supercoppa di ieri della Juventus: 2 gol in Supercoppa e subito Juventus. Ci sono anche un commento sul Sud di Ernesto Galli della Loggia, le parole non dette sul Sud, e tra l'altro anche sul Sole 24 Ore c'è, invece in questo caso a cura di Luca Ricolfi, un approfondimento sul Sud che si intitola Mezzogiorno è sempre colpa degli altri. La prima pagina della Repubblica, anche in questo caso, cita Grillo, soprattutto per quanto riguarda la questione dei migranti, un asse tra Grillo e Salvino, perché all'origine di questo appunto c'è un post apparso ieri sul blog dei 5 Stelle dove si invocano più rimpatri, e la Lega tra l'altro ha risposto un po' sprezzantemente, li prende al Papa, l'accenno naturalmente è alle parole di Papa Francesco pronunciate, ne abbiamo parlato ieri, pronunciate in realtà parlando di un'altra grande ondata migratoria, però il senso era sempre lo stesso, cioè respingere dei migranti che scappano da situazioni di disagio, di fame o di guerra, equivale appunto a un atto di guerra. Dalla prima pagina della Repubblica vi segnalo un'intervista al ministro delle Infrastrutture Delrio che rilancia per quanto riguarda i porti e le ferrovie, sarebbero pronti i cantieri per 15 miliardi e in questo modo darebbero una spinta al PIL dell'1%. E l'intervista la trovate poi a pagina 10 e 11, vi leggo in particolare questa risposta che riguarda l'alta velocità. Ieri abbiamo parlato delle compensazioni mancate per i paesi, per i comuni che saranno sconvolti di fatto dall'arrivo dell'alta velocità, parlavamo soprattutto del Piemonte, e allora appunto sull'alta velocità chiede Valentina Conte a Delrio: e l'alta velocità ferroviaria riuscirà a superare Eboli? Un riferimento al famoso titolo Cristo si è fermato a Eboli, cioè l'idea che comunque lo sviluppo dell'Italia avvenga veramente sempre soltanto al nord e non al sud. E la risposta di Delrio è: abbiamo programmato con RFI, cioè Rete Ferroviaria Italiana, la parte del gruppo Trenitalia che si occupa della realizzazione fisica delle reti ferroviarie, di scendere da Salerno a Reggio Calabria, ma bisogna anche scegliere, e qui faccio un discorso generale: se fare 4 binari costa 5 miliardi per 20 chilometri, forse è meglio metterne 2 di binari ed essere un po' meno veloci a 200-225 chilometri anziché 300, risparmiando il 70% e con effetti ottimi. Discorso applicabile anche per la linea adriatica, dotata da settembre dei Frecciarossa e nel 2016 in grado di avvicinare Milano e Bari scendendo da 7 ore e mezza a 5 e mezza. In Sicilia per l'alta velocità sono pronti quasi 4 miliardi, altrettanto sulla Napoli-Bari-Taranto. Il punto non è la carenza di investimenti, ma la performance. Il Messaggero ha un'apertura leggermente diversa, che ipotizza già come che forma prenderà la legge di stabilità, cioè quella legge che verrà poi varata per il budget dello Stato, per capire come verranno spesi i soldi pubblici, quante spese avrà lo Stato e quanti soldi avrà bisogno per il prossimo anno. E secondo appunto in questa manovra si sta già pensando a come incorporare nella legge di stabilità il taglio del costo del lavoro. La legge di stabilità sale oltre i 33 miliardi, la copertura verrà da tagli di spese e aumento del deficit, 2 miliardi in più per i nuovi assunti, 6 per alleggerire i contributi ai lavoratori dipendenti. Queste le ipotesi appunto fatte dal Messaggero. La Stampa ha un'apertura ancora diversa, perché da una parte c'è un'intervista che trovate a pagina 2 e 3 a Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fiat Chrysler, fatta a Detroit, dove da Detroit Marchionne ipotizza, insomma, dice la sua su quale potrebbe essere il futuro dell'Italia. Il titolo scelto dalla Stampa: per farcela bisogna accettare il nuovo. Anche noi intesi come italiani, dobbiamo guardare avanti come l'America. Ma dalla prima pagina della Stampa vi segnalo anche un reportage da Teheran di Francesca Paci, che poi trovate alle pagine 10 e 11. L'Iran, Teheran, la sua capitale, sono al centro, devo dire, di molta attenzione negli ultimi giorni. Sono parecchi giornalisti che stanno cercando di raccontarci questo paese, che è un paese grandissimo, con una popolazione con un'età media molto bassa, e potrebbe essere vicino a una svolta, visto il grande accordo che c'è stato sul nucleare, che, lo ripetiamo sempre, deve essere ancora approvato dal Parlamento americano, e che se non verrà approvato dall'America avrà molto meno significato. In ogni caso, si parla tanto dell'Iran, anche in Italia, sapete, abbiamo appena avuto una missione con il ministro degli esteri Gentiloni e Federica Guidi, ministro dello sviluppo economico, per reimbastire una rete di accordi economici. Ecco, allora la Stampa con Francesca Paci ci racconta i giovani di Teheran in viaggio tra i ragazzi che vogliono aprirsi al mondo, pagina 10 e 11 della Stampa. Vi segnalo la prima pagina del secolo XIX, un po' vabbè, la fotonotizia è dedicata a Cassano, perché sapete che tornerà alla Sampdoria, una della la sua prima squadra, Antonio Cassano, con questo contratto, mi sembra di ricordare, da 700.000 euro all'anno, e poi una speciale scrittura privata dove si dice che se sarà intemperante come è stato in passato, la Sampdoria potrà licenziarlo senza penali, diciamo così. Ma vi segnalo il secolo XIX per due ragioni: uno, un aggiornamento su quella che ormai viene chiamata la cena delle beffe, cioè il conto che il principe Alberto in visita a Genova non avrebbe pagato in un ristorante 15.000 euro, ma non avrebbe neanche versato i 10.000 euro di beneficenza raccolti, e quindi un commento un po' ironico di Alessandro Cassina. E poi un aggiornamento sul raid omofobo che è avvenuto a Genova qualche giorno fa. Ci sono alcune novità, perché i colpevoli di questo pestaggio avvenuto nella notte su un autobus a un ragazzo, perché era stato creduto gay, e quindi gli altri volevano pestarlo perché da gay avrebbe guardato uno di questi ragazzi, e la segnalazione sarebbe stata fatta dalla ragazza di uno di questi 7 bulli. In ogni caso, questi 7 bulli si sono dileguati, il ragazzo picchiato è in condizioni gravissime in ospedale. E allora il secolo XIX ci aggiorna su questa vicenda: raid omofobo arriva al RIS di Parma. Le foto dei 450 affiliati alle pandiglias, perché questi bulli apparterrebbero appunto a queste gang, sono state analizzate con un software innovativo appunto di questa nostra CSI, di questa nostra polizia scientifica, il RIS di Parma. Vi segnalo l'Unità poi, perché il titolo è Il giorno degli sciacalli, perché in questa, appunto, dopo questo post uscito sul blog del Movimento 5 Stelle, è intervenuto il presidente del Partito Democratico Orfini e ha chiamato sia i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che sposano queste tesi di respingere con più forza, rispedire a casa i migranti, e dall'altra parte Salvini e la Lega, che sostiene questo da tempo, li ha chiamati appunto sciacalli. Salvini e Grillo uniti nella lotta contro il Papa, i migranti e l'Italia che va a salvarli. Ma vi segnalo la prima pagina dell'Unità anche per una lettera che Sergio Staino, che è il fumettista autore di Bobo, che compare ogni giorno sull'Unità, ha scritto a Gianni Cuperlo, che è un po' tra i leader di questa minoranza Dem, che adesso per esempio minaccia battaglia sulla legge che abolirebbe negli intenti il Senato elettivo. E la lettera di Sergio Staino, che trovate poi per intero a pagina 9, a Gianni Cuperlo: caro Gianni, che delusione sostanzialmente per questo tipo di opposizione che sta facendo questa minoranza Dem. Il Sergio Staino dice: la lettera aperta del papà di Bobo ha costruito un'alternativa a Renzi, ma senza distruggere il PD. E poi una critica molto dura, devo dire, a quella scelta di candidare De Bortoli, che forse ricorderete, come candidato appunto della minoranza Dem nel CDA della RAI. E con, tra l'altro, lì c'era stato il commento del presidente, sempre del presidente Orfini, che si chiedeva che cosa avesse a che fare De Bortoli con una minoranza Dem, cioè con una minoranza del Partito Democratico molto a sinistra, quando sicuramente De Bortoli tutto si può dire, meno che abbia posizioni estreme. De Bortoli, lo ricordiamo, naturalmente ex direttore del Corriere della Sera, ma anche ex direttore del Sole 24 Ore. Ci fermiamo però ora un attimo per gli aggiornamenti sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, e dopo la lettera aperta di Sergio Staino al leader della minoranza Dem, Gianni Cuperlo, passiamo alla prima pagina dell'Avvenire, perché questa lettera era appunto sulla prima pagina dell'Unità. La prima pagina dell'Avvenire invece ha un titolo dedicato ai migranti, e si parte da quel dato di cui abbiamo parlato anche ieri, fornito da Frontex, l'Agenzia Europea per l'Immigrazione, che parla di arrivi dalla Libia. Tutti gli arrivi dalla Libia fino al 6 agosto sono 98.371, e analizzando questi flussi di migranti si scopre che vengono sempre di più dall'Africa, e quindi i siriani in calo, vengono da Eritrea, Nigeria, Somalia e Sudan. Tra l'altro in Eritrea, Somalia, e abbiamo visto anche nel sud del Sudan, lo abbiamo visto qualche giorno fa, oltre a tutte le difficoltà che ci sono in Africa, le più o meno focolai di guerra civile, in questi tre paesi sono anche in corso delle carestie, quindi sicuramente persone che fuggono da situazioni di disagio estremo, fuggono per salvarsi la vita. Veniamo alla prima pagina del giornale, invece ha un titolo diverso, dedicato a un parallelo sulle politiche di immigrazione italiane e tedesche. In Germania infatti è stato fatto un video dove si dice: non venite perché comunque per gli immigrati, perché la situazione è difficile, perché accogliervi è difficile, perché è difficile ottenere il diritto d'asilo. E quindi il giornale titola: Merkel minaccia gli immigrati, Renzi pensa ad accoglierli. Il video avvertimento della Germania non entrate, c'è un approfondimento su questa questione e poi una risposta alle parole di Papa Francesco, di Vittorio Feltri, lettera a Papa Francesco sui migranti. Per l'iniziativa che è iniziata una decina di giorni fa del giornale per l'estate, le lettere d'amore, una lettera d'amore originaria di una persona che non c'è più è una risposta impossibile invece di una persona che vive. Oggi c'è una lettera di Vladimir Majakovsky, ti amo un milione di volte, il titolo scelto dal giornale, e la risposta impossibile di Pupi Avati, un genio schiavo della passione. Il titolo di Libero, il vero Nazareno lo faccio io, è un virgolettato tratto da un'intervista che Matteo Salvini ha concesso a Libero a Francesco Specchia. Il leader della Lega dice a Renzi: se parliamo seriamente di lavoro, riforme economiche, burocrazia e giustizia, sono pronto all'intesa e a mettere a disposizione tutti i nostri voti. L'euro, anche Berlusconi vuole uscirne. Il vero Nazareno naturalmente è il riferimento al fatto che si chiamava così il patto del Nazareno, quello mai naturalmente dimostrato, mai sul quale non abbiamo mai avuto una totale trasparenza, ma che pare fosse stato siglato tra Berlusconi e Renzi sulle riforme costituzionali. Libero chiede da qualche giorno che ci sia una sorta di accordo simile tra centrodestra e centrosinistra sulle questioni economiche, e Matteo Salvini a quanto pare risponde: sarei disposto. Il Manifesto, un titolo completamente diverso, trivellati alle spalle, il riferimento è a una questione che riguarda l'Abruzzo, perché ieri c'è stato un via libera che il Manifesto definisce a tradimento del governa a questa mega piattaforma petrolifera nel mare Adriatico a ridosso della costa, e i cittadini e le associazioni ambientaliste della regione sono scese in piazza per protestare. Il Fatto Quotidiano ha invece un'intervista a Rosi Bindi e su questa titola: via il Senato dei nominati o nuova sinistra di governo, quindi il riferimento è all'opposizione che abbiamo visto nei giorni scorsi della minoranza Dem di cui fa parte Rosi Bindi, che si oppone appunto a questa riforma che abolirebbe di fatto il bicameralismo perfetto, renderebbe il Senato non elettivo. Sembrava ci fosse l'accordo, adesso tutto a un tratto l'accordo non c'è più e quindi questa riforma è a rischio. Vi segnalo la Gazzetta dello Sport che titola sulla vittoria della Juve, e poi c'è un approfondimento anche sui mondiali di nuoto che si concludono oggi, con l'ultima gara in cui un italiano, Gregorio Paltrinieri, che ha già vinto un argento, cerca l'oro nei 1500 sfide stile libero. Il suo grande sfidante è un nuotatore cinese, Sun Yang, e naturalmente tutti i nostri auguri a Gregorio Paltrinieri, che tra l'altro è un molto giovane, appena 20 anni. Ma passiamo ai supplementi culturali e cominciamo naturalmente dalla Domenica del Sole. Il breviario di Gianfranco Ravasi oggi è dedicato a Giulio Andreotti, e la citazione quindi è proprio di Giulio Andreotti, una delle tante, sapete che era un grande creatore così di piccoli e grandi aforismi. Andreotti: questo è, a parte le guerre puniche mi hanno attribuito di tutto, so di essere di mezza statura ma non vedo giganti intorno a me. E scrive Ravasi: ho avuto occasione di incontrare qualche volta Giulio Andreotti, tra l'altro sono subentrato a lui in una delle tante cariche che rivestiva, quella di presidente della Casa di Dante di Roma. Come tutti, prescindendo da qualsiasi giudizio politico, sono rimasto sempre stupito per l'incisività e l'originalità delle sue affermazioni, di qualunque genere fossero. Ne ho raccolte due tra le tante, anche apocrife, che gli vengono attribuite. Confessava infatti di essere, in fondo, postumo di se stesso. Mi fermerei solo sulla seconda citazione, che contiene, al di là dell'autodifesa personale, una verità indiscussa. In tutti i campi, infatti, è facile imbattersi in molti che si atteggiano a giganti, ma che in realtà meritano la definizione coniata da Victor Hugo per il superbo: è un titano nano. E là invece la rubrica del direttore Roberto Napoletano, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, è dedicata a suo padre e ai padri in generale. La soddisfazione dei padri e la forza dell'amore di una vita. Prende spunto da una lettera che gli è arrivata da Sergio Giacomini, che era amico di suo padre e che gli ha ricordato un po' la figura del padre, scomparso quando Roberto Napoletano aveva solo 23 anni, e anche un po' insomma lo spunto per sottolineare quanto sia importante il legame con un padre, specie quando magari muore presto, e in generale il legame tra generazioni e l'importanza di tramandare alcuni valori. E a proposito di valori e di valori che non si perdono nel tempo, vi segnalo una bellissima iniziativa che inizia questa domenica, ma andrà avanti per altre 5 domeniche, ed è dedicata alla poesia. Franco Loi, che è uno dei maggiori poeti italiani, riflette su cosa significa scrivere versi oggi. Quindi questa prima puntata la trovate a pagina 19, la poesia secondo me. Vi leggo le ultime righe. Ci sono delle persone che fuori dalle convenzioni non sono neanche più capaci di parlare. Sono abituate così a non andare mai più in là dei luoghi comuni. Questo alla fine impedisce loro di capire, anche solo di capire, e di entrare in un rapporto con se stessi e con il mondo che non sia quello delle convenzioni. L'abitudine a stare attenti alle parole ci libera da molti impedimenti e anche dalla zavorra delle cose morte che sono intorno a noi e delle vite morte che parlano intorno a noi. La parola usata sciattamente fa sciatta la nostra vita. La fa occasionale, e quindi il lavoro sulla poesia è un lavoro sacrosanto, importantissimo, un lavoro che ogni uomo dovrebbe fare, perché senza accorgersene ogni uomo un poco muore. E sempre dal Sole 24 Ore vi segnalo anche che da martedì, cioè dopodomani, saranno in edicola Con il Sole, una serie di lezioni d'amore, ce le racconta Armando Massarenti. Ogni martedì con il Sole 24 Ore saranno appunto in edicola queste lezioni d'amore dei classici. Si parte con Lucrezio, La natura della passione, mentre il 18 agosto sarà la volta di Ovidio con la sua Arte di amare. E naturalmente tantissimi altri gli approfondimenti sulla Domenica del Sole 24 Ore, ma vi cito brevemente anche gli altri supplementi che trovate oggi in edicola: la lettura del Corriere della Sera, in copertina come sempre l'opera di un artista, oggi è una rappresentazione grafica di Ennio Ludovico Chiggio, e dall'interno vi segnalo una lunga recensione di un libro che si chiama Il dono del rancore, divertente perché Giancarlo Di Maggio ci racconta come questo libro di Laura Tappatà parli appunto del rancore, il titolo La necessità del rancore con misura, giusto dare sfogo al risentimento dopo aver subito un torto, sbagliato coltivare per sempre rabbia e fantasia di punizione. E poi un libro che io dovrò assolutamente comprarmi perché parla di puntualità, io sono un po' una maniaca della puntualità, e qui ci spiega questo libro di Max Engammare: la puntualità è colpa di Calvino. I tedeschi sono più precisi nelle scadenze di Grecia e italiani? Sì, ma la causa è un retaggio culturale che risale alla riforma protestante. Ecco il libro che Varoufakis avrebbe dovuto tenere nel suo zaino. Varoufakis è solamente il ministro, l'ex ministro delle finanze greco, che della puntualità non ha fatto, della puntualità delle scadenze, dei rimborsi dei debiti del suo paese con l'Unione Europea, col Fondo Monetario Internazionale, non ha fatto esattamente una priorità, e tra l'altro è stato appunto poi sostituito dal suo primo ministro Tsipras. Un'altra recensione, un altro approfondimento su un libro di Ilaria Bernardini, L'inizio di tutte le cose, che parla, sono 9 storie di madri, non esistono buone o cattive madri, bontà e cattiveria sono in tutte noi. Abbiamo parlato di poesia, ne parla anche la lettura con un lungo articolo di Paolo Di Stefano, La poesia è viva, la sua fine ripetutamente annunciata divide i critici, tuttavia i numeri e soprattutto la qualità degli autori contraddicono i catastrofisti. Sorpresa, collane e riviste resistono con editori eroici. Gli spazi sono salvi e i versi trovano lettori. Si è perso però il dialogo tra generazioni di scrittori e naturalmente anche di poeti. Ultima segnalazione dalla lettura, un intervento di Igort, uno dei grandi fumettisti italiani, fondatori della Cocconino Press, che racconta come sia da sempre sulle tracce di Tsuji Yoshitanu, che è un fumettista giapponese, che lui vorrebbe il Salinger dei manga, che vorrebbe tanto intervistare ma non ci è ancora riuscito. La Domenica della Repubblica apre invece sui diari di Astrid Lindgren, la grande scrittrice, creatrice di Pippi Calzelunghe, da cui poi sono stati tratti innumerevoli trasposizioni televisive per il grande schermo. Pippi va alla guerra, questa scrittrice che è vissuta appunto negli anni ha vissuto intensamente gli anni prima della Seconda Guerra Mondiale e quelli che l'hanno seguita. Hitler, bombe e pasticcini. Nei diari di Astrid Lindgren la storia della piccola ribelle nata 70 anni fa. Dalla Repubblica vi segnalo anche una bella intervista a Johnny Hallyday, cantante, poi anche attore, ma soprattutto cantante. Il titolo scelto: Meglio restare vivi. Johnny Hallyday credo che abbia più di 70 anni ormai, e però sta per iniziare una nuova lunga tournée, un nuovo disco. Viene definito il re del rock francese. Ecco, sì, racconta i suoi 72 anni, un'infanzia difficile, una morte da poco sfiorata. Ecco perché sorrido. Poi invece un'altra intervista di Giuseppe Videtti a Fernando Botero. l'artista colombiano, scultore e pittore, celebre in tutto il mondo per il suo segno extra large. Sapete, disegna sempre queste figure di donne, di uomini, di famiglie, appunto extra large, tanto nei quadri che nelle sculture in gesso. L'artista colombiano però rifiuta questa etichetta di artista curvy, come si dice adesso. Sono solo uno che a 19 anni venne a studiare a Firenze, sedotto dalla pittura volumetrica di Giotto e del Masaccio. E da Macro, il supplemento del Messaggero, vi segnalo invece un approfondimento su quelli che vengono definiti turisti per fiction. È un tipo particolare di turismo, in generale è stato inventato all'estero. A New York per esempio ci sono tutti questi tour dove si vanno a vedere ad esempio i luoghi in cui è stato girato Sex and the City, o magari sono stati girati altri telefilm o film. Ora però è arrivato anche in Italia, quindi dal bar dei Cesaroni alla Garbatella, alla Basilica di Don Matteo a Spoleto, al tour napoletani sulla traccia di Un posto al sole, la soap opera più longeva che abbiamo in Italia. I fan si mettono in viaggio per visitare i luoghi dove sono ambientate le serie TV, che siano veri o immaginari poco importa, tanto che molti in Sicilia cercano l'inesistente vigata di Montalbano, perché sappiamo che esiste solo nella fantasia di Andrea Camilleri. Così aumentano gli incassi di bed and breakfast e ristoranti. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi, un grazie a Peter Bescapè in regia. Noi settimana prossima ci sarà Elisabetta Fiorito per la rassegna stampa e noi ci risentiremo poi dopo Ferragosto. Ancora una buona domenica a tutti, buone vacanze per chi le fa, e comunque un buon agosto a tutti quelli che magari restano in città o in altri luoghi per lavorare.